24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci, buongiorno cari ascoltatori, le 7:20 minuti. Allora ripartiamo dalla politica oggi. Bene, sì, sono i giorni decisivi per che cosa? L'incarico forse a Mario Monti? Un governo tecnico, oppure c'è ancora chi porta e punta a dire le elezioni? Insomma, prima di tutto salviamo il paese, questo è il titolo che abbiamo dato alla puntata di oggi. Ne parleremo alle 8:20 con esperti, con politici, ma anche con il professor Giacomo Vaciago, economista. Alle 8:20 ci spiegherà cosa vuol dire per i mercati un governo tecnico e elezioni in questo momento. Intanto da cosa partiamo? Beh, la politica è anche ovviamente il tema dominante, lo sarà per giorni sui giornali in edicola. È venerdì 11 novembre, l'11, ah, la fine del mondo, non so, data palindroma con tutti i numeri uguali, chi lo sa. Siamo ancora qui, per ora sono le 7:21 e 34 secondi, 35 e 36 e il mondo c'è, teniamo duro. Allora, i titoli dei giornali. Per il Sole 24 Ore, bot al 6%, ma lo spread scende. Per il Corriere della Sera, Monti Premier, nuove tensioni nel PDL. Per Repubblica, Monti, un lavoro enorme da fare. La Stampa, battaglia nel PDL su Monti. Per il Giornale, non svendiamo il PDL. Il tema della divisione del PDL, certo, è uno dei temi politici più interessanti in questi giorni. Per il Fatto Quotidiano, professor Monti, attento alle trappole, Libero, giù dai Monti. Vedete, ormai Monti è dappertutto. Il Messaggero, Monti, un lavoro enorme da fare. L'Unità mette invece le cose da fare, equità, legge elettorale, privatizzazioni, antitrust. Mentre il Manifesto, Monti dei pegni, questo è il titolo di apertura. Avvenire, prima di tutto il paese, Monti ricevuto al Colle. Allora, intanto, che cosa hanno combinato i parlamentari con la legge di stabilità? Cari ascoltatori, qualcuno l'ha definito l'ultimo rantolo della casta, l'ul colpo di coda della casta. Si chiama legge mancia, tecnicamente non è neanche facile spiegare cosa sia, è spesa pubblica improduttiva, definita così legge mancia perché sono un gruzzoletto quest'anno di 150 milioni che i parlamentari si possono redistribuire nei propri collegi elettorali. Altro che tagli, 150 milioni alla legge mancia. Ebbene sì, nel maxi emendamento alla legge di stabilità ci hanno piazzato 150 milioni di euro che i parlamentari, appunto, di spesa improduttiva, quindi non sarebbe stata spesa, i parlamentari si distribuiscono qua e là nei loro collegi. C'è chi li dà al proprio oratorio, chi magari all'istituto dei ciechi della zona, chi magari li dà alle mense della Caritas, chi li dà, c'è anche chi li dà a se stesso, di fatto, come fa notare Repubblica dal titolo Cani randagi, oratori, polisportive, 150 milioni nella legge mancia, pagina 12, Roberto Petrini. Ecco qui, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute dal comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti dal crollo del fabbricato di Via Roma. Sembra surreale, ma l'emendamento del relatore della Lega Massimo Garavaglia alla legge di stabilità 25 septies è questo, una norma ad personam, è tradotta così: il sindaco di Barletta ottiene per il suo municipio la deroga alle spese per 1 milione. E chi è il sindaco di Barletta? Non è altro che il senatore Antonio Azzollini, che è anche il presidente della commissione bilancio del Senato, lo stesso che pochi minuti prima di questo emendamento aveva incontrato gli emissari della BCE dell'Unione Europea appiombati in Parlamento per rassicurarli sulle intenzioni di rigore della maggioranza. Eccolo qua, Repubblica, spunta il contributo ad hoc per il sindaco, senatore e presidente della commissione bilancio. Altro che tagli, 150 milioni alla legge mancia, titolo anche il Fatto Quotidiano, anche Avvenire una pagina, ultime mance, ok a fondi per 150 milioni. E Mario Aiello, in prima pagina del Messaggero, titola così: il palazzo si fa l'ultimo regalo, legge mancia, l'ultimo blitz della casta. Povero Mario Monti, inizia Mario Aiello. Che brutta sorpresa lo accoglierà ora che mette piede a Palazzo Madama come senatore a vita. Monti ha appena detto che bisogna lottare contro i privilegi, vanno ridotti i costi della politica, ed eccolo qui. Il benvenuto che gli si dà è di segno assolutamente opposto. È la legge mancia. 150 milioni, voilà. Rimango sul Messaggero per un'altra notizia che viene messa in prima pagina, una notizia che ricorda un dramma e che ricorda che c'è davvero molto da fare in Italia. Uccise i fidanzatini, torna libero. Sarà scarcerato Stefano Lucidi, l'uomo che il 22 maggio 2008 sulla via Nomentana, sotto effetto di droga e alcol, travolse e uccise con la sua Mercedes lanciata ad alta velocità Alessio Giuliani e Flaminia Giordani, rispettivamente di 22 e 23 anni. Era stato condannato in primo grado a 10 anni, poi si è visto dimezzare la pena a 5 anni. Ora, grazie alla buona condotta durante la detenzione, è sul punto di lasciare il carcere. Racconta il Messaggero a pagina 17, già la prossima settimana potrebbe lasciare il carcere, in ogni caso potrebbe avere la semilibertà, l'affidamento in prova. Già dalla prossima estate sarà libero, potrà tornare al mare, dal 1 luglio scatterà la liberazione definitiva, fino ad allora avrà l'opportunità di riadattarsi alla quotidianità lavorando presso un centro di assistenza per essere a casa entro le 9 di sera. Un accordo sarebbe già stato raggiunto tra i legali del pirata della strada e i giudici di sorveglianza. Lui ha messo sul piatto una condotta irreprensibile durante il periodo della detenzione, una mano dalla Cassazione che appunto ha ridotto da 10 a 5 anni la pena. Per lui, che stava litigando con la fidanzata 22 maggio 2008, spingeva il piede sull'acceleratore, si è lasciato alle spalle i semafori di via Nomentana e alle spalle anche le vite di due ragazzi. Sarà libero. Uccise i fidanzatini scooter, presto libero per buona condotta. Ubriaco e drogato, con la sua auto travolse i due giovani. E sì, parafrasando proprio Mario Monti, da cui ripartiremo dopo la pubblicità, in questo paese c'è davvero molto, ma molto, ma molto da fare. 24 mattino. E allora, saranno i giorni di Mario Monti? Chi lo sa? Intanto tutti ovviamente ne scrutano i movimenti, ne osservano i movimenti. Oggi sarà un debutto per lui al Senato alle 10.30 per la legge di stabilità, lui che è stato nominato senatore a vita 2 giorni fa dal capo dello Stato, e lui che ieri è andato 2 ore a colloquio al Quirinale, ufficialmente appunto per il neo incarico di senatore a vita. Però insomma, tutti ovviamente pensano a Mario Monti come possibilità entro domenica addirittura di un incarico subito dopo l'approvazione della legge di stabilità. Sta di fatto che tutti i giornali leggono ora con una maggiore attenzione ciò che Mario Monti, che in pubblico non parla ovviamente, ha detto 2 giorni fa a Berlino al simposio Dahrendorf, dove si commemorava Ralph Dahrendorf, filosofo sociologo, come Monti è stato commissario europeo. Ebbene, a margine lì Monti ha detto, e parole riportate nel Financial Times: non lo nego, abbiamo davanti un enorme lavoro da fare, parlando ovviamente dell'Italia. All'Italia, l'Europa e la comunità internazionale chiedono di fare quello che ogni paese dovrebbe desiderare di fare da sé, cioè crescere, e la crescita non deve arrivare dal ricorso al debito quanto dal la rimozione degli ostacoli che fino ad ora ci hanno frenato. Riforme strutturali è quello che ci vuole per togliere i privilegi di quasi tutte le categorie sociali. Ci vogliono meno barriere all'entrata, meno privilegi, rendite per gli inclusi, più possibilità di ingresso per gli esclusi e per i giovani, più spazio al merito e alla concorrenza. Insomma, detta così, bellissime parole, e qualcuno le legge come anche un possibile programma. Abbiamo davanti un lavoro enorme, questo è il titolo che maggiormente vedete messo in bocca a Mario Monti, ovviamente detto in questo convegno. Ieri Mario Monti, racconta Alberto D'Argenio, ha fatto il viaggio da Berlino a Roma, al Quirinale, e l'immagine plastica per D'Argenio, a pagina 3 di Repubblica, di quello che sta accadendo l'hanno avuta i passeggeri del volo che ieri pomeriggio ha portato Monti da Milano, dove ha fatto scalo da Berlino, a Roma. Quando alle 15.30 il volo all'Italia in arrivo dalla capitale si avvicina al Finger di Linate, una flottiglia di auto blu a sirene spiegate recupera un gruppetto di ministri di rientro dai palazzi romani. Dal finestrone del gate osserva la scena proprio Mario Monti. Il neo senatore a vita è solo, seduto insieme agli altri viaggiatori che aspettano l'imbarco. In mano stringe un trolley. Un ricordo di 10 anni fa, visto che c'è scritto European EU, insomma Unione Europea Antitrust. Un viaggiatore lo avvicina. Professore, ci salvi lei. Monti si imbarca, siede al posto 1C, si mette a leggere. Al suo arrivo a Roma lo prende in consegno una Lancia Tesis blu messa a disposizione del Quirinale. Repubblica sottolinea questo viaggio da Berlino senza scorta. E poi la politica. La politica fa registrare questo. Allora, c'è un PDL che è diviso, spaccato, tutti titolano così, anche giornali come Il Giornale, vedete a pagina 6 il titolo è questo, a pagina 4, dubbi tra gli ex di Forza Italia, il PDL rischia di spaccarsi, il tema è questo, chi vuole Monti e chi non lo vuole? Di certo non lo vuole l'Italia dei Valori con Di Pietro, che ha detto non lo votiamo, e subito si è scatenata anche una bagarre dei militanti dell'Italia dei Valori che dicono Di Pietro sbagli. La Padania titola no, non ci stiamo, e ora opposizione, dunque la Lega non vuole Monti. Calderoli ha detto è in arrivo la banda Bassotti. Gli altri partiti, beh, c'è Vendola che oggi fa un'intervista al Corriere della Sera e dice un ni, cioè apre leggermente, nel senso che dice Vendola, per la verità l'intervista è alla Stampa, pagina 9, a Riccardo Barenghi, dice va bene il governo Monti se ha un senso, se è di scopo. Alcuni provvedimenti di equità sociale come una patrimoniale pesante, la tassazione delle rendite, le transazioni finanziarie, il taglio delle spese militari, dopodiché fine della storia e si va al voto tra pochi mesi. Se non è così, beh allora non mi avranno, non accetto di farmi militarizzare dalle grandi banche internazionali che hanno provocato apposta la speculazione sull'Italia per riuscire proprio a dirigere il nostro paese da fuori. Se il professor Monti accettasse questo schema e con lui il Partito Democratico di Bersani, sarebbe non solo la sconfitta della sinistra ma di tutta l'Italia. Così Vendola. Il PD è un po' incerto, nel senso che si parla appunto di alcuni scontenti dell'ipotesi Monti, ma il partito più lacerato e diviso è il Popolo della Libertà. Ieri Berlusconi ha detto e se proponessimo noi un candidato, ed è rispuntata l'ipotesi di Lamberto Dini. Tra l'altro Berlusconi, che pare sia stato colto anche da un malore per stress e febbre a 39, il suo medico personale Zangrillo, intervistato dal Corriere, dice febbre alta scatenata dallo stress e dagli attacchi vili degli ultimi giorni che mettono a rischio la sua salute, sono preoccupato perché non si riposa. E poi appunto la questione del PDL che si divide, tutti fanno gli schemi di chi è a favore delle elezioni e sono in genere gli ex AN, vale a dire non so, i ministri Matteoli, Meloni, La Russa, ma anche Sacconi è assolutamente per il voto, Brunetta è per il voto. Ci sono invece quelli che hanno aperto al governo tecnico come ieri Frattini. Oggi ci sono due interviste che il Corriere propone proprio in parallelo per far capire le divisioni all'interno del PDL. A pagina 6 intervistate il vicepresidente della Camera Maurizio Lupi, che dice a questo punto la strada migliore è il governo di emergenza nazionale, e il ministro Matteoli, che invece dice abbiamo litigato per 3 anni su tutto con il PD e ora andiamo al governo tecnico con il PD? Assolutamente no, io non ci penso nemmeno e sono per le elezioni. Berlusconi ha detto deciderà il comitato di presidenza del partito sabato, e la linea che verrà stabilita sabato dal Popolo della Libertà è quella che poi alla quale tutti si dovranno attenere per quel che riguarda il futuro. Chi punta al voto poi invece è, sappiamo, Giuliano Ferrara, che anche oggi sul Foglio dice: giro di giostra, poi il voto, sia chiaro, Monti è una persona seria e responsabile, se potesse fare il commissario a camere sciolte per un paio d'anni come a Bruxelles qualche cosa buona la realizzerebbe, ma i paesi democratici si governano altrimenti. E lui, Ferrara, Feltri, Sallusti, quindi il Giornale, il Foglio, la Santanchè per il governo, che ha promesso porterò anche membri del governo, sabato faranno una manifestazione a Milano al Teatro Manzoni per chiedere al voto gli irriducibili, definisce la Stampa, cioè coloro che vogliono il voto. E poi, cari ascoltatori, non si sa ancora se ci sarà un governo tecnico, non si sa se questo eventuale governo tecnico sarà guidato da Mario Monti, ma di certo tutti i giornali sanno già o pensano di sapere la lista dei ministri. Dovunque sui giornali c'è il toto ministri, per esempio impazza, vi do qualche nome così poi li butto nel calderone, voi ci ragionate, dice questo mi piace, questo non mi piace. Allora, intanto la mossa di Bini Smaghi, colui che si è dimesso alla fine dal board della BCE con 2 anni d'anticipo, come voleva Sarkozy, come Berlusconi gli ha detto deve fare, perché abbiamo promesso quel posto ai francesi. Alla fine Bini Smaghi si è dimesso per andare a insegnare ad Harvard, ma questo ufficialmente andare a insegnare ad Harvard, perché il Fatto Quotidiano è il più esplicito a dire lascia la BCE ma è pronto per un ministero. Ufficialmente ha detto da gennaio insegnerò ad Harvard, ma già è incasellato come possibile ministro all'economia, per esempio, eccolo qua, anzi allo sviluppo economico. A pagina 9 del Corriere il toto ministri è amato agli esteri, Bini Smaghi o Saccomanni allo sviluppo economico. E poi cosa vi posso dire? Buttiglione all'istruzione, Bassanini, Franco Bassanini sarebbe un ritorno alla pubblica amministrazione, Pietro Ichino al welfare, rimangono Fitto e Frattini. E poi c'è vice premier, è bella questa, Gianni Letta o Enrico Letta, cioè zio o nipote, Gianni Letta attuale o Enrico Letta del PD. Per il Sole 24 Ore, Saccomanni o Grilli, questa sarebbe la scelta per l'economia, mentre il Secolo XIX mette a pagina 3, eccolo qui. Allora, Buttiglione viene dato vice premier qui in questo caso, oppure Enrico Letta, Bini Smaghi rientra, Maurizio Lupi potrebbe avere l'istruzione, l'attuale vicepresidente della Camera. Mentre per il Giornale, a pagina 6, eccolo qui le prime indiscrezioni sui ministeri. Alla sanità Livia Turco potrebbe tornare. Vicepresidente del Consiglio, anche qui, o Gianni Letta o Enrico Letta, insomma zio e nipote. Per invece la Stampa, beh, c'è proprio questo articolo di Mattia Feltri, Enrico e Gianni Letta, una famiglia al governo. C'è anche in prima pagina della Stampa Gramellini che si esercita dicendo nulla di personale nel suo buongiorno, ma quando ho letto di Letta e Letta, sottosegretari, zio e nipote nel toto ministri come in un fumetto di Paperino, mi sono un po' stranito. Poi hanno iniziato a girare i nomi di Frattini, La Russa, una giovane promessa, Giuliano Amato, che fu premier appena 18 anni fa, ma è stato nel veder rispuntare l'ottantenne Dini al telegiornale che ho avuto un sussulto. Ma il governo Monti sarà una cosa seria e dura, sarà il governo dell'Europa e del capitalismo possibile. Così l'esordio di Gramellini. Effettivamente fa un po' effetto vedere, no, i nomi che tornano. Però un'altra linea è quella: non ci saranno politici, no ministri politici, ma ministri tecnici. Anche per il Corriere della Sera, Bini Smaghi insegnerà ad Harvard, per il capo dello Stato un gesto responsabile e leale, ma insomma può darsi che poi farà il ministro. Dimenticavo tra i nomi anche Per il Nuovo che Avanza, come mi scrive qualche ascoltatore via SMS in maniera un po' polemica, anche il professor Umberto Veronesi è dato da qualche giornale come papabile neoministro alla sanità. Ma sono tutte indiscrezioni. Intanto cambiamo tema, ne parleremo poi dalle 8:20 della situazione politica. Beh, vorrei concentrarmi, come mette in prima pagina il Sole 24 Ore, sulla vicenda che ha coinvolto il numero uno della Banca Popolare di Milano. Un'inchiesta, è stato accusato, il titolo è Finanziamenti facili BPM Ponzellini indagato a Milano. Scrive Claudio Gatti nell'inchiesta in prima pagina del Sole: quasi 150 milioni di euro tra crediti, fideiussioni, garanzie che la Banca Popolare di Milano ha concesso all'Atlantis B Plus in un anno dal 26 ottobre. No, in un atto, scusate, il 26 ottobre i sostituti procuratori di Milano, Roberto Pellicano e Mauro Clerici, avevano definito quel finanziamento incomprensibile sia per l'enormità della cifra, sia per le dimensioni e la mission della banca cooperativa di Piazza Meda e anche per l'opacità societaria del cliente che ha beneficiato di quegli aiuti, una ditta che opera nel settore del gioco d'azzardo, la cui casa madre ha sede nelle Antille olandesi ed è guidata da Francesco Corallo, figlio di Gaetano, pregiudicato per criminalità organizzata. Ed ecco allora sono scattate le perquisizioni della Guardia di Finanza di Milano con i due PM che hanno fornito la loro spiegazione di quel finanziamento, che sarebbe stato affatto non incomprensibile, bensì frutto di un'operazione sponsorizzata dall'ex presidente di Banca Popolare di Milano, Massimo Ponzellini. I reati ipotizzati: associazione a delinquere, ostacolo alle autorità di vigilanza. C'è un giallo nel giallo all'interno di questa, di queste perquisizioni che sono state fatte nei confronti appunto dell'ex presidente di BPM, perché a un certo punto, durante le perquisizioni della Guardia di Finanza a casa di una delle persone che non è indagata, Francesco Corallo, amministratore di questa società che ha beneficiato di questi finanziamenti, si è presentato di colpa, è piombato lì un parlamentare, Amedeo La Boccetta, onorevole Amedeo La Boccetta del Popolo della Libertà, il quale non solo è parlamentare, ma è stato in passato anche un rappresentante, ex procuratore di Atlantis, cioè di questa società, che formalmente aveva abbandonato ogni ruolo nella società dopo l'elezione. E cosa ha fatto questo parlamentare? Si è precipitato lì davanti a un'attonita guardia di finanza, ha detto: scusate, questo computer è mio, l'ho dimenticato qui a casa di questo Francesco Corallo, ho l'immunità parlamentare, quindi questo computer me lo riprendo, me lo porto via. Nel mezzo della perquisizione, cioè senza farlo perquisire ovviamente, una cosa che ovviamente ha lasciato stupiti i militari della Guardia di Finanza. Oggi l'onorevole La Boccetta al Corriere si difende così: ma quale giallo, state montando il caso come panna montata, quel computer era mio e me lo sono portato via, lo avevo dimenticato mercoledì sera che ero a cena a casa di Francesco Corallo. Siete amici? Certo, siamo amici, l'avevo già detto in un'intervista al Corriere della Sera, ero andato a riprendermi il computer, ho trovato i finanzieri e ho detto: scusate, questo è mio, che c'è di strano? E a scanso di equivoci, chiede il Corriere, non poteva lasciare che i finanzieri controllassero il PC? Ma se lo vogliono controllare è a disposizione, aggiungo io, dopo averlo portato via chiaramente. Ma perché dovevo lasciare che la mia attività parlamentare finisse tra le carte sequestrate di Corallo? Insomma, il mio PC non c'entra nulla, io Ponzellini non lo conosco, sono andato lì, ho preso il mio PC che avevo dimenticato a casa del rappresentante di questa società che ha beneficiato di questi soldi e ho ripreso il mio computer. Questa è la verità dell'onorevole Ponzellini, scusate, La Boccetta, l'onorevole La Boccetta. Voglio andare a Erpelliccia. Sapete, ricordate subito chi è Erpelliccia, la foto dell'estintore. È tornato a casa Fabrizio Filippi, 23 giorni di carcere. Io, un fantozzi con l'estintore. Così titola pagina 31 La Stampa. Certo, ci sarà il processo, ma per il momento è libero solo con tre obblighi di tre firme a settimana. Scarcerato Erpelliccia. Mi chiamano così perché ho i riccioli da quando ero giovane. Erano scappati tutti, io ho fatto una cavolata e quella foto mi ha fregato, no? Quella foto in cui lancia l'estintore. Nonostante questo è il tatuaggio che ha sulla pelle, nonostante tutto l'odio con cui il vostro mondo è plasmato, il mio amore continuerà a vivere. L'hanno beccato per questo tatuaggio. Ero lì, studio psicologia, torno subito sui libri, nonostante il processo, ho fatto una cavolata, ho sbagliato e pagherò, non volevo fare male, un gesto stupido, quando tutto è finito arrivo io, tutti erano scappati e arrivo io, tiro un estintore in aria, ma quelli sono già andati via e chi ti finisce in carcere? Lo sfigato di turno. Ecco, Erpelliccia si definisce così, lo sfigato di turno. Vabbè, comunque lo trovate sui giornali. Chiudo con la citazione di Gene Gnocchi, giusto per sorridere, sulla Gazzetta dello Sport, il rompipallone di oggi. No, la condanna di Moggi, eh? La Juve ribadisce: con Moggi noi non c'entriamo nulla, abbiamo sempre vinto gli scudetti a nostra insaputa. 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan. È un paese da salvare, ovviamente il nostro. Come farlo? Dal punto di vista politico, ovviamente, ne vogliamo discutere oggi. I termini sono ovviamente elezioni o governo tecnico. Su questo si sta dibattendo in Italia. Intanto lo vogliamo fare con un economista, docente alla Cattolica di Milano, il professor Giacomo Vaciago, che saluto. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Lei non è dato per ragioni anagrafiche tra i Monti Boys, perché credo che anzi lei abbia un anno in più del professor Monti, ma come un uomo vicino al professor Monti. Perché lei ieri ha detto Monti è pronto da 4 mesi a questo programma di governo? Beh, ma è molto semplice, perché leggo i giornali, a differenza di altri, e ho notato il cambio di stile degli editoriali di Mario Monti. Prediche inutili alla Luigi Einaudi, ma da qualche mese quello che è urgente fare e che io penso che farei. E quindi era chiaro che se la situazione si aggravava, una risorsa di riserva c'era. Cosa le devo dire per ciò che ci stanno chiedendo i mercati? Attenzione, io non ho mai visto i mercati e la comunità internazionale chiedere con tanta forza a un paese di fare di più per interesse, di tornare a crescere. Di tornare a crescere. Intanto le chiedo, perché professore la linea è un po' traballante, di stare dov'è, che così la sentiamo. Ma stare a crescita, crescita ed equità, titola per esempio oggi il Sole 24 Ore. Il programma è bello, ma come attuarlo a parole, con i fatti? Questa mattina è rimettere in moto un'economia di mercato, significa concorrenza. È ciò che Monti ha fatto a Bruxelles per l'Europa, adesso deve farlo per l'Italia. Il migliore vince, datelo a casa, magari, ma siamo pronti a partire da quando? A parole questo governo l'aveva già promesso nel 94, è quello che abbiamo visto. Attenzione, l'altra cosa che la comunità internazionale ha ripetuto quotidianamente come una cosa, una litania incredibile, è credibilità. Sì. Fare ciò che hai promesso. Credibilità è, dopo le parole, i fatti. Secondo lei a che livello siamo di credibilità d'Italia adesso? Attualmente zero. Ancora la notizia che partiva il governo Monti, i mercati ieri hanno detto: prima vogliamo vederla. Cioè, pausa in attesa di sapere se è vero. Attenzione che a questo punto, essendo l'ultima risorsa rimasta, oltre al suicidio, era chiaro che dovevamo essere credibili. Senta, questo già risponde alla domanda che volevo farle, cioè perché ancora è in atto il dibattito: elezioni oppure governo di continuità? C'è qualcuno che non ha capito nemmeno cos'è successo ieri l'altro. 3 giorni così, e lo stato sospende gli stipendi, i dipendenti pubblici. Cioè, c'è qualcuno in giro che non solo non legge i giornali, ma non ci parla nemmeno con i mercati e non misura la temperatura. Il famoso spread, il famoso 7% e poi cosa succede, significa che il tesoro italiano non riesce a collocare carta, quindi la 13ª ve la scordate. Vuol dire gli stipendi degli italiani sono a rischio, cioè in questo scenario ovviamente di cataclisma. Riesci a finanziare il rinnovo del debito, tanto meno riesci ad emetterne del nuovo. Abbiamo il cellulare ci aiuta e non ci aiuta, professor Vaciago. Vediamo, ogni tanto la linea la perdiamo. Il messaggio è chiaro. Lo stesso. Il messaggio è chiaro, è arrivato. Però, guardi, anche Romano Prodi ieri ha detto il governo tecnico però è un po' un commissariamento della politica, parliamoci chiaro. Cioè la politica vuol dire che in questo momento non ce la fa. La possiamo leggere così? Diciamo che la politica non può più raccontare favole e deve fare quelle tre cose che fanno ripartire la barca, perché se no, senza futuro, anche la politica è inutile che si eserciti a parlare. Attenzione, gli spazi di manovra sono esigui, spero che il cellulare trasmetta. Sì, benissimo in questo caso. Gli spazi di manovra sono modestissimi. Ma perché si è persa sovranità? Chi non lo vuol capire, provi a emettere carta italiana sui mercati e vede la risposta. Ma questo vuol dire che entro lunedì, cioè il timing quello di approvare la legge di stabilità, fare le consultazioni domenica e dare l'incarico, si pensa, Mario Monti, domenica sera per ripresentarsi all'apertura dei mercati con un nuovo governo in pectore, questo dobbiamo fare? Se vogliamo evitare altri bagni di sangue è meglio. Possiamo ancora farci del male. Attenzione, io dall'inizio, da luglio, dico che essendo l'Italia un paese ricco e pieno di risorse, possiamo danneggiare i nostri figli più a lungo di altri paesi. Ma questo non lo auspico, ovviamente, lo temo. Se però qualcuno ha capito cos'è successo quest'anno, ha capito che vedere l'Italia frenare con quel camion pieno di montagna di debito era una minaccia per il mondo, fin la Casa Bianca era preoccupata di noi. A qualcuno si diverte e dice: ma guarda come ci danno importanza. Ahimè sì, noi abbiamo un treno che porta una montagna di debito e se il treno si rovescia sui binari, questo debito dilaga nel mondo e fa male a tutti. Il mondo ci guarda preoccupato. Però ha visto, professore, che la politica, almeno il PDL per esempio, è diviso, l'IDV ha detto no a Monti, la Lega no. Cioè che numeri deve avere per essere fortemente legittimato un governo Monti? Il governo Monti è legittimato dall'emergenza, punto. Dopodiché chi la capisce ci sta, sarà ricordato come uno di quelli che l'avevano capita. Chi si mette di traverso sarà ricordato come uno quello che fino all'ultimo ha voluto danneggiare i nostri figli. Questa è la situazione. Attenzione, io non drammatizzo perché lo so che questo paese ha infinite virtù al suo interno, ma se le tieni sotto una cappa di pessimismo, come ho visto crescere in questi mesi, anche le nostre virtù non si liberano, se ne vanno altrove, crescono altrove. L'ultima questione è la questione dei toto ministri che già impazza. O non è che, professor Vaciago, la troviamo poi, perché lei non no è sicuro. No, di sicuro. Guardi, il mio signore preferito e vi aiuto a capire. Non ho una tessera in tasca. No, tessera, ma qui non è questione di tessere. Adesso se c'è largo ai tecnici, largo. Ciascuno di noi deve conoscere le proprie doti e i propri limiti. Io vi aiuto a capire e non devo essere interessato a farle le cose. Ah, va bene. Se no, sbaglio. No, ma l'ha sentito Monti in questi giorni, ce lo può dire? No, per niente. Va bene. Ma so come ragiona. Ad esempio, cosa si fa subito? Ciò che accomuna i programmi. Attenzione, se io fossi al suo posto, trovo che alcune cose ce le ha chieste l'Europa, ce le ha dette Trichet, ma stanno anche nelle promesse del governo Berlusconi e del documento del PD. Queste sono le cose ovvie da fare, non mi possono mica dire di no. Erano le loro promesse. E certo, quindi quelle sono. E quindi tu incominci da ciò che ci accomuna. Guai ai governi litigiosi in emergenza, guai a litigare. Guai a litigare, ma la politica si sa che spesso è fatta anche per questo. Intanto, professore, la ringrazio per essere stato con noi, il professor Giacomo Vaciago, che insegna economia politica alla Cattolica, editorialista del Sole 24 Ore, insomma economista ben conosciuto in Italia e non solo. 24 mattino. Eccoci qui allora dopo l'analisi del professor Vaciago alle 8.37 minuti a parlare di come i partiti politici stanno vivendo questo momento. Allora, governo tecnico e governo tecnico con Mario Monti, che è l'ipotesi ormai più probabile, oppure elezioni. C'è chi vuole le elezioni, ma non solo dell'attuale maggioranza, la Lega per esempio, no al governo tecnico, oppure l'Italia dei Valori, no al governo tecnico. Vendola ha detto un ni oggi in un'intervista alla Stampa, un po' aperto al governo tecnico, sì, ma deve fare una bella patrimoniale, un riequilibrio dell'equità, altrimenti non ci stiamo. Noi abbiamo chiamato due esponenti dell'attuale maggioranza, ma che forse la pensano in modo diverso. L'onorevole Mario Valducci, il Popolo della Libertà, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E saluto Matteo Salvini per la Lega Nord, buongiorno Salvini. Buongiorno e buon venerdì. Oggi la Padania titola no all'opposizione, ma prima vorrei fare una domanda a Valducci per far capire anche un po' agli ascoltatori. Le faccio un quiz, onorevole Valducci, se posso. Il 18 gennaio 1994, lei si ricorda dov'era? Beh, ero dal notaio Colistra a firmare l'atto costitutivo di un movimento politico denominato Forza Italia. Ecco, quindi lei è con Berlusconi dal primo giorno, ha fondato Forza Italia, è una di coloro che è andato dal notaio a fondare Forza Italia. Ora, che cosa secondo lei bisogna fare? Elezioni o governo tecnico? Innanzitutto dobbiamo calarci nella realtà, ovvero siamo in una realtà in cui le condizioni economiche, finanziarie ma anche sociali sono di natura straordinaria e quindi è ovvio che bisogna dare una risposta straordinaria. Cioè, se fossimo in un momento normale, quando viene meno il governo e il Presidente del Consiglio voluti dagli elettori, noi siamo stati i primi a fondare questo principio della cosiddetta Repubblica, è giusto tornare al voto, ma penso che questo non è la condizione in cui ci troviamo oggi. Quindi bisogna andare a creare un governo. Io, guardi, le formule dei governi tecnici ci credo poco. I governi sono tutti politici, perché quando un governo fa un atto, anche un decreto, poi il decreto deve essere approvato dal Parlamento. Quindi in Parlamento non ci sono cittadini, cioè ci sono cittadini che hanno avuto un mandato dagli elettori, quindi ci sono cittadini che sono stati eletti sotto i simboli dei vari partiti, per cui comunque il governo è politico. È chiaro che queste sono le condizioni in cui ci troviamo ad affrontare e a prendere delle decisioni, che sono delle decisioni difficili, anche perché, come lei ricordava, io personalmente ho un ottimo rapporto con gli amici della Lega e quindi irrompere, spero che ciò non avvenga, un percorso che ormai dura da veramente tanti anni, dal 98-99, con loro sarebbe un fatto sicuramente traumatico e difficile, oltre, come tutti coloro che ci stanno ascoltando sanno, quelle che sono i diversi punti di vista assolutamente tutti legittimi all'interno del Popolo della Libertà. Ma è un calice amaro quello che secondo lei deve bere a questo punto il Popolo della Libertà accettando questo governo tecnico? Io penso che noi dobbiamo affrontare questo momento straordinario e credere in, se vogliamo sostenere un governo, il governo Monti, chiamiamolo adesso governo Monti, e credere che questo governo possa effettivamente realizzare alcuni obiettivi importanti, che sono il pareggio di bilancio e, aggiungo una cosa di cui non si è parlato in questi giorni, le riforme costituzionali, che sono fondamentali, se ne discute da 30 anni e che se c'è la volontà politica si possono fare ormai in pochi mesi. È chiaro che ci vuole una predisposizione positiva, perché se la predisposizione è quella dei distinguo, dei dubbi, delle, tanto questo governo non va da nessuna parte, allora è meglio votare. Guarda, io ho fatto in questi 3 anni e mezzo il Presidente di Commissione e le posso garantire, Commissione Trasporti della Camera, che in questi 3 anni e mezzo lasciando fuori dalla porta gli scontri di attualità politica, abbiamo spesso trovato soluzioni importanti nella risoluzione dei problemi dei cittadini. Quindi si può fare. Ma no, ma tra l'altro su questo poi avrò una domanda finale proprio nel suo ruolo attuale, perché l'avevamo chiamata anche di recente per parlare di un altro tema, ma me la riservo alla fine, prima sull'attualità politica. Allora Salvini, la questione è questa: la Lega ha detto arriva la banda Bassotti, cioè la Lega ha detto il governo Monti no, meglio l'opposizione. Perché questo ostracismo così duro? Ma innanzitutto per serietà e coerenza nei confronti degli elettori e di chi ci ascolta, qualunque sua la sua idea politica. Ci piace sbagliare o far bene con la nostra faccia e con la nostra responsabilità. Secondo, perché fino a settimana scorsa, ascoltando Radio 24, tutti ci ricordavano come fosse questa una crisi causata dalla finanza, dalle banche, dai superpoteri, dalle lobby. Ebbene, a giudicare dai nomi di cui stiamo leggendo, chi se non l'espressione più alta delle Goldman Sachs, delle Trilateral, della finanza mondiale, delle banche, sarebbe colui che ci salva? Ecco. Se gli indignados fino all'altro ieri protestavano contro le banche, oggi sono spariti e sarebbero le banche a salvarci da quello che loro stessi hanno creato. Quindi sarebbe il governo delle superbanche, dei superpoteri, dei poteri forti, così si dice. Ma io non credo ai complotti, io non credo che ci sia il grande regista occulto della lobby ebraica o massonica. Sicuramente qualcuno che ha lavorato per le banche d'affari fino a pochi anni fa, banche d'affari che ci hanno portato nella situazione di oggi in braghe di tela, e la politica ha le sue responsabilità. Però chi ha giocato con i quattrini della gente non stava a Montecitorio ma stava altrove. Ecco, presentarceli adesso come salvatori della patria con una ricetta. Io mi sono letto tutte le 39 richieste della Banca Centrale Europea, quando al punto 5 si sappia, lo sappia chi ci sta ascoltando, si parla di possibilità di abrogare totalmente le pensioni di anzianità, sì, come se fosse un lusso andare in pensione dopo aver lavorato per 40 anni, non per 5 anni, per 40 anni. Ebbene, io ho qualche dubbio sul fatto che sia questo il modo di uscire. Magari è un lusso andare dopo 15 anni, ecco, questo sì. Fuori dubbio. Questo però, questo magari si deve toccare, cioè andare dopo 15 anni lo è. Ma questo non mi sembra ci sia più, per fortuna, da parecchi anni. Beh sì, certo, però voglio dire, è un sistema difficile da reggere. Non voglio tirare in ballo, non la voglio mettere in difficoltà la questione della moglie di Umberto Bossi. Ma guardi, io ho tanti amici, io ho 38 anni, ho diversi miei compagni delle scuole elementari la cui mamma faceva l'insegnante, appunto, sono andati in pensione dopo 15 anni. Una legge folle, una legge degli anni passati folle, da cui nasce il debito pubblico, una legge sbagliata che non c'è più fortunatamente, ma che ha contribuito al debito pubblico. Io ricordo a me e a chi ci ascolta che comunque il problema dell'Italia è la spesa eccessiva, come giustamente ci ricorda Giannino, che sono i 100 miliardi di euro che ogni anno partono da nord e finiscono in spesa mal gestita, soprattutto in alcune regioni d'Italia. E di questo la Banca Centrale Europea, Mario Monti o Superman, nei 39 punti del taglio della spesa assistita ed eccessiva in alcune zone d'Italia non trovo traccia. No. Comunque non è che poi Radio 24 dica che sia questa crisi causata dalle superbanche, dai poteri forti. Un po' il ruolo della politica c'è anche, no, Salvini? Anche il ruolo della politica, anche la politica ha fatto la sua parte. Se avessimo fatto tutto giusto non saremmo qua a parlare di un governo dimissionario con le Carlucci che cambiano maglietta dall'oggi al domani. Abbiamo le nostre colpe e ce ne assumiamo la responsabilità. Detto questo, che le agenzie di rating, le banche d'affari e alcuni istituti finanziari abbiano giocato con gli stati, con i quattrini della gente, l'ha visto anche mio figlio che ha 8 anni. In ogni caso il no della Lega è secco. Da qua voglio ripartire, perché Valducci dopo il traffico ci ha detto ci vorrebbe più coesione, più unità, no ai no secchi, e scusate il gioco di parole. Invece la Lega, insomma, con Salvini ribadisce il no è secco nei confronti di Monti o chi che sia. Tra poco. Allora, le 8:47 minuti, onorevole Valducci, la questione è questa, insomma, ma anche il PDL lo danno per, qualcuno dice diviso, molti più pessimisti sì, ne parlano come un partito lacerato in questo momento su queste divisioni. Gli ex AN vogliono andare al voto, anche Sacconi al voto, Brunetta al voto, lei e Frattini, altri dicono no, meglio il governo tecnico. Che succede nel PDL? C'è questo dibattito, io mi auguro che si possa arrivare a una determinazione e che poi rispetto a questa determinazione tutti ne siano convinti, sia nell'un caso che nell'altro, perché ribadisco, è vero che sicuramente i mercati sono oggetto di una speculazione portata avanti da interessi economico-finanziari internazionali, su questo non c'è dubbio, ma è anche vero che purtroppo, devo dire, la nostra maggioranza è venuta meno per responsabilità nostra, poi lasciamo perdere i singoli, va benissimo, però è venuta meno la maggioranza. Ma quindi se sabato quindi il Consiglio dico, se sabato il governo non è un governo di poteri forti, è un governo che su cui il Parlamento deciderà ogni passaggio. Certo, questo sì, però onorevole, se sabato alla Presidenza del Popolo della Libertà decidono si va al voto, quindi lei è pronto a dire va bene, mi adeguo anche se certo, per lei. Certo, non c'è dubbio, anche se per lei, per me, ribadisco, è meglio questa ipotesi che è un'ipotesi in cui si vada a costituire, ad appoggiare un governo, per esempio sono contrarissimo all'appoggio esterno, a tutti questi alambicchi, diciamo, del vecchio modo di approccio alla politica, perché se uno dice sosteniamo un governo, ma poi in realtà nella quotidianità del lavoro parlamentare ci si mette continuamente zeppe e si dice e lo si affonda, è meglio andare subito al voto. Sì, vorrei dico sentire nell'interesse, cioè, l'Italia prima di tutto, a mio modo di vedere, sta anche nella responsabilità di tutti noi nel momento in cui si prende una decisione di sostenere con forza questa decisione. Questo è fondamentale. Cioè io agli amici della Lega dico anche che in questi mesi noi potremmo anche completare quel percorso del federalismo fiscale, del Senato delle Regioni, della riduzione del numero dei parlamentari, che sono da 30 anni che ne parliamo. Sì, effettivamente, se no questo tutto va, se finisce una legislatura, è ovviamente viene sospeso. È solo sì, un governo, diciamo, sostenuto dalle maggiori forze politiche può fare queste riforme costituzionali. Vorrei andare l'Europa non è la Bibbia. Io dico dobbiamo raggiungere il pareggio di bilancio. Poi è chiaro che dobbiamo determinare quelle azioni più virtuose e chiaramente io penso che il professor Monti, che è una persona assolutamente capace di indicarci certe soluzioni, può essere una persona valida per indicarci queste soluzioni. Mi faccio poi andare a Bari da Franco, un ascoltatore, 800240024, Franco da Bari. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori, specialmente auguri per la sua persona, una bravissima persona. Niente, volevo dirle, io come la stragrande maggioranza degli italiani, penso, sono d'accordo sul governo tecnico e non parlino che facendo in questa maniera sia commissariato la politica, perché loro hanno fallito da destra a sinistra, chi ci rappresenta ha fallito, io sono elettore di centrodestra. Però Franco, lei non crede, Franco, mi scusi, non crede che, come ha detto l'onorevole Valducci, poi, perché bisogna chiarire un attimo, non è che il governo tecnico si sospendono le questioni costituzionali, un governo tecnico vuol dire un governo formato magari da tecnici più che politici, ma se fa un decreto legge, poi il decreto legge va convertito in Parlamento come qualsiasi tipo di governo. Allora, in Parlamento va convertito, vuol dire che devono votare persone per convertire quel decreto legge in legge, che sono parlamentari, quindi partiti, per cui non è che il governo tecnico vuol dire che con la politica non c'entra più nulla, no Franco? Allora ci devono comunque essere loro sempre in mezzo, dico. Scusi, cioè ipotizziamo Monti fa un decreto legge, il decreto legge va, non è che il governo tecnico decide tutto, il decreto legge va convertito in legge dal Parlamento, cioè il primo atto del governo Monti, se ci sarà, sarà chiedere la fiducia in Parlamento, non è che vengono sospese le questioni costituzionali, tutte le norme costituzionali, Franco, cioè lei pensava che Monti decide, fa una firma e decide tutto da solo? Pensavo che lui con i suoi collaboratori potesse decidere da solo, e invece no, ci stanno sempre loro in mezzo, allora vuol dire che fra qualche mese staremo ancora appunto da capo. Franco, mi spiace averla deluso, onorevole Valducci, lei con una avendo spiegato una cosa costituzionale abbiamo deluso Franco, che pensava arrivasse Mandrake Monti a risolvere tutti i problemi dell'Italia con una firma. Ma ecco perché dico che dobbiamo essere convinti, chi sosterrà questo governo, che poi le cose vanno fatte in Parlamento, perché altrimenti daremo una doppia, tripla delusione ai cittadini. Questo è anche un momento, se vogliamo, di riabilitazione della politica con la P maiuscola, se centreremo gli obiettivi del pareggio di bilancio e della riforma costituzionale. Sì. Se non li centreremo, avremo veramente a questo punto dato prova di incapacità da parte nostra. Io vorrei un flash da Salvini, perché poi devo fare un'ultima domanda a Valducci. Salvini, non sentite la responsabilità di dire la Lega si vada a votare, ma come l'Italia dei Valori, e con questo vuoto di, non so, due mesi, andiamo a catafascio nel frattempo? Ma lei pensa veramente che una coalizione dove ci stanno dentro Fini, Rutelli, D'Alema, Berlusconi, Casini, Buttiglione, Bennita e Cirino Pomicino con Clemente Mastella sia in grado di tirar fuori il paese dai problemi in cui il paese versa? Vabbè, lei fa una domanda retorica, rispolverando anche persone che non è che Cirino Pomicino entrerà a far parte del governo, però... di coloro che il debito pubblico l'hanno creato. Poi come Lega, per carità di Dio, se ci saranno i numeri li aspetteremo, se ci saranno dei provvedimenti condivisibili li voteremo, non è che siamo qua questo vedremo. Per lo sfascio e a guffare. Questo vedremo, lasciatemi 30 secondi. Presidente Valducci, presidente della Commissione dei Trasporti, l'ultima volta l'abbiamo chiamata per la questione dell'omicidio stradale, se ha letto i giornali oggi sul Messaggero, uccise i fidanzatini in scooter, ubriaco e drogato, Stefano Lucidi, sarà libero tra poco, 5 anni la pena finale, ha ucciso due ragazzi a Roma, sarà libero tra poco. Che dice? Che dico che bisogna introdurre il reato dell'omicidio stradale aumentando le sanzioni penali con una pena minima da 8 anni a 18 anni per chi appunto guida drogato, ubriaco, e a questo aggiungo che questa persona che magari fra 6 mesi purtroppo tornerà anche a guidare lungo le nostre strade, con la nuova norma chi si commette di questi reati non potrà più mettersi alla guida o al manubrio di nessun veicolo. E questo penso che sia l'ergastolo della patente, una delle pene di deterrenti più importanti. Noi puntiamo a questo, speriamo che la politica in questo faccia una cosa buona e giusta. Ringrazio tutti, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, Viola Bottoni in redazione, Peter Bescapè in regia, con l'onorevole Valducci e Matteo Salvini della Lega. Grazie, ci ritroviamo lunedì mattina alle 7:20. 24 mattino.